Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Diminuisce il grado di fiducia, diminuisce anche la voglia di partecipazione, di guardare, di star dentro i cambiamenti politici. Noi crediamo che il difetto di questo anno o di questi ultimi anni da parte della politica è stato di non avere né la capacità di ascoltare i cambiamenti del corpo sociale, di capirli, di analizzarli oltre che di gestirli, né la capacità di offrire uno sguardo del futuro. Stava parlando di noi Giorgio De Rita, presidente del Censis, a proposito di questo 51esimo rapporto sulla situazione sociale dell'Italia 2017, che insomma, ha parlato di un certo scoramento degli italiani. Ha detto la ripresa c'è, ma cresce l'Italia del rancore. Voi sentite, avvertite questo sentimento voi stessi oppure le persone che ci sono intorno, che conoscete, questo rancore per la mancata redistribuzione delle risorse, per la paura anche che nella scala sociale insomma non si possa più salire ma semmai scendere. Ne parleremo lungamente con un grande sociologo e voi naturalmente potete scrivere i vostri commenti e le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, oppure al numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Poi ci occuperemo anche di altre cose. Oggi è la giornata mondiale contro l'AIDS, perché se è vero che per quanto riguarda l'Italia le infezioni e i contagi sono meno, però si sta rischiando di abbassare la guardia, soprattutto tra i giovani, e la guerra non è ancora finita. Parleremo delle possibili nuove cure, nuove terapie, se prima o poi esisterà un vaccino. Poi c'è il meteo, poi c'è il calcio, di cui parleremo tra pochissimo, della Serie A. Oggi ci sono stati anche i sorteggi per i mondiali, ma sapete che noi ne siamo al di fuori. Quindi direi, come sempre, sintesi della giornata tra pochi secondi e poi cominceremo ad approfondire alcuni argomenti. L'Italia nel rapporto del Censis, la ripresa c'è anche se il PIL frena, ma cresce il rancore, molto bassa la fiducia nella politica, paura del declassamento sociale e boom di povertà. Russiagate, incriminato Michael Flynn, l'ex consigliere di Trump, in tribunale si è dichiarato colpevole di aver mentito all'FBI. Germania, per il governo si prepara la grossa coalizione, paura per un pacco sospetto fatto brillare, ma erano petardi senza innesco. La giornata mondiale contro l'AIDS, meno infezioni in Italia, ma si rischia di abbassare la guardia, la guerra che nel mondo ha fatto 35 milioni di morti non è ancora finita. Maltempo, gelo e neve in arrivo nel nord Italia, allerta in Liguria, tromba marina a Sanremo. Inquinamento, spiagge italiane invase da cotonfioc, l'agenzia Enea ne stima 100 milioni. Calcio, per i mondiali 2018 si comincia il 14 giugno con Russia-Arabia Saudita. Per la Serie A, Roma batte Spal 3-1, in campo Napoli-Juventus, e partiamo allora proprio da lì. Con il nostro Giovanni Capuano. Giovanni, quindi mi pare che a parte Roma-Spal già ci sia un risultato anche per Napoli-Juventus, seppur iniziata da poco, eh? Eh sì, ciao Roberta, siamo al 18° minuto, il risultato dice che la Juventus sta vincendo 1-0 al San Paolo di Napoli, il gol ha segnato al 13°, indovina chi? Gonzalo Higuaín, il grande ex, fischiato, fischiatissimo anche questa sera dal pubblico del Napoli, Higuaín che ha toccato due palloni, al quarto ha costretto Reina a una grandissima parata in uscita e poi al 13° su un contropiede innescato da un errore di Insigne nella metà campo della Juventus e poi completato con un assist di Dybala ha battuto il portiere spagnolo portando in vantaggio la Juventus. Juventus che sta, diciamo la verità, meritando il vantaggio in questi primi 18 minuti, ha sofferto proprio nelle primissime battute, ma poi oltre ad aver creato l'occasione che avevo già descritto ha trovato il gol e soprattutto ha dato la sensazione di essere più padrona del campo rispetto al Napoli di Sarri, che in questo momento, siamo al 19° minuto, avrebbe un punto di vantaggio in classifica sulla Juventus, 38 contro 37, è ancora lunghissima. Ma la partita è iniziata in modo sicuramente attraente per quelle che sono le prospettive da qui al 90°. Bene, noi prima del 90° ci risentiamo con Giovanni Capuano. Grazie Giovanni. E invece andiamo adesso sul rapporto 2017 del Censis. Mentre l'Istat, in un quadro che resta comunque positivo, rivede il prodotto interno lordo, la ricchezza del paese, al ribasso per il terzo trimestre 2017, nel dibattito sulla crescita arriva anche l'analisi appunto del Censis sulla situazione sociale del paese, che dice che la ripresa c'è, ma cresce l'Italia del rancore. Un'Italia in ripresa nell'industria e nell'export, con i consumi che corrono, anche quelli accantonati negli anni più bui della crisi, estetica, cultura, pacchetti vacanze, ma anche un'Italia dei rancori, delle contraddizioni e delle disuguaglianze, con un boom di persone in povertà assoluta. Fotografia numero 51, scattata dal Censis, come sempre a luci ed ombre, ma questa volta particolarmente impietosa, il direttore Massimiliano Valeri. Oggi si ha nel corpo sociale la percezione che non sia stato distribuito il dividendo sociale della crescita economica. Ci sono parti della società rimaste indietro. Questo crea rancore. Questo riguarda ad esempio molto gli stranieri, gli immigrati. La maggior parte degli italiani continua ad avere sentimenti negativi nei confronti degli immigrati, un paese che attrae stranieri ma con basse qualifiche mentre perde i suoi cervelli migliori, un paese che rimpicciolisce meno 76.000 persone nel 2016, che invecchia, i cosiddetti millennial sono solo 11 milioni su 60 milioni di abitanti. Forse anche per questo, come dice il Censis, è un paese incapace di immaginare il futuro, di scollarlo dal presente, e non sorprende quindi l'ultimo dato del rapporto, la scarsa fiducia nella politica, che non perdona nessuno, governo, partiti, istituzioni locali. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. Pesano il rallentamento dei servizi e il calo delle scorte, ma il quadro resta positivo, così l'Istat legge la revisione al ribasso delle stime sulla crescita italiana del terzo trimestre del 2017, limando l'andamento del PIL al più 0,4% sul trimestre precedente e al più 1,7% su base annua. A metà novembre le stime dell'Istituto di Statistica davano la crescita congiunturale allo 0,5% e quella tendenziale all'1,8%. La dinamica cala quindi di 0,1% punti percentuali rispetto alla stima di metà novembre, nella stessa misura mese su mese e per la variazione annua, come anche per la crescita acquisita del PIL in caso di crescita congiunturale nulla negli ultimi tre mesi dell'anno, che per l'intero anno è data pari all'1,4%. Bene gli investimenti che accelerano la loro corsa, tra i settori buona performance dell'industria, battuta dal resto invece per l'agricoltura, per la siccità che ha colpito proprio nel terzo trimestre da luglio a settembre. Resta ampiamente a portata al più 1,5% per l'intero anno stimato dal governo su dati grezzi, mentre i dati Istat sono corretti per il calendario. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Intanto, tra economia e politica, su Banca Etruria prosegue lo scontro tra il Partito Democratico e Banca Italia. Renzi insiste e dice: la nostra è una battaglia giusta. Non cerca rivincite o vendette Matteo Renzi, ma sulle banche il segretario PD esulta e colpisce. Speriamo, dice Renzi, che quanto è emerso sia da insegnamento per evitare altri errori in futuro. Il segretario PD commenta le dichiarazioni del PM di Arezzo Roberto Rossi, che davanti alla commissione d'inchiesta ha accusato Via Nazionale per la fusione Etruria e Popolare di Vicenza, due istituti in crisi. Per Renzi la commissione sta dimostrando che la battaglia del PD era giusta, basata sui fatti, nessuna polemica, ma i Dem ne escono a testa alta. La vicenda Boschi, aggiunge poi Renzi, è stato un gigantesco alibi per non parlare di chi ha avuto problemi seri. Ma dall'opposizione Matteo Salvini della Lega non la pensa così. Il colpevole è il PD, manderemo in galera tutti i complici di queste truffe e pagheranno a testa alta. Il presidente della commissione Pier Ferdinando Casini poi lancia un monito: non confondere i ladri con le guardie. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Trasferiamoci adesso sulle notizie dall'estero. Cominciamo dal Russiagate. L'ex consigliere per la sicurezza nazionale del presidente americano Trump, che è Michael Flynn, è stato formalmente accusato di aver reso dichiarazioni false all'FBI sui suoi contatti con la Russia durante la campagna elettorale per Trump, come lui stesso ha ammesso. Nuovo colpo di scena sul Russiagate. Michael Flynn, l'ex consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, si è dichiarato colpevole in tribunale nello scandalo e ha messo nero su bianco la sua completa cooperazione con l'inchiesta del procuratore speciale Robert Mueller sulle interferenze di Mosca nelle elezioni americane e i sospetti di connivenza da parte della campagna Trump. Una svolta che minaccia di portare l'inchiesta fin dentro la cerchia più ristretta dei fedelissimi del presidente, sollevando lo spettro di nuove gravi polemiche politiche sulle sue relazioni pericolose con il Cremlino, se non dell'impeachment. Flynn, che aveva già tagliato i legami con i legali dell'amministrazione, è il quarto collaboratore di Trump a cadere nella rete delle indagini. In tribunale ha dichiarato: le mie azioni sono state sbagliate, accetto piena responsabilità. Marco Valsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. E dagli Stati Uniti alla Germania. In Germania inizieranno a breve le trattative per la Grosse Coalition, lo scrive la Bild Online in esclusiva, dando conto dell'incontro ieri sera tra i leader dei partiti della CDU e SPD con il presidente della Repubblica tedesca Steinmeier. Ma Schulz, leader dell'SPD, per ora nega, dice sono notizie false, ma nessuna opzione è esclusa. E oggi ci sono stati momenti di paura a Potsdam per un pacco sospetto che ha indotto all'evacuazione di buona parte del mercatino di Natale e che è stato fatto brillare questo pacco, ma poi gli inquirenti hanno comunicato che si trattava appunto di un pacco che conteneva petardi senza innesco. E siamo al viaggio del Papa in Asia, con tappa in Bangladesh. Francesco si è inchinato davanti alla minoranza perseguitata dei Rohingya. Vi chiedo perdono per l'indifferenza del mondo, ha detto. Nel suo secondo giorno in Bangladesh, alla vigilia del suo ritorno a Roma, Papa Francesco per la prima volta pronuncia la parola Rohingya e lo fa incontrando a Dhaka 16 profughi della minoranza musulmana in Myanmar, la quale non viene riconosciuta la cittadinanza e che negli ultimi mesi ha subito la durissima repressione dell'esercito birmano. Vi chiedo perdono per l'indifferenza del mondo, ha detto loro il pontefice, inchinandosi, stringendo mani e accarezzando i bambini. Vi sono vicino. La presenza di Dio oggi si chiama anche Rohingya. Il Papa ha quindi riservato ai profughi il posto d'onore, di solito destinato alle celebrità, all'interno del giardino dell'arcivescovado di Dhaka, dove si è tenuto un incontro interreligioso ed ecumenico per la pace. Qui Bergoglio è tornato ad invocare l'armonia tra le religioni contro ogni fondamentalismo. Ciò richiede più che una mera tolleranza. Ci stimola a tendere la mano all'altro per costruire un'unità che comprenda la diversità non come minaccia, ma come potenziale fonte di arricchimento e crescita. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ci sono ancora polemiche per il Giro d'Italia che partirà da Gerusalemme. Alla scelta ieri di sostituire la dicitura Gerusalemme Ovest con quella di Gerusalemme è arrivata oggi la replica, questo per cercare di non scontentare Israele, è arrivata oggi la replica arrabbiata dell'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che dice l'annessione israeliana di Gerusalemme Est è illegale e rappresenta una violazione dei suoi doveri in quanto potenza militare occupante, c'è scritto in una nota. L'OLP chiede al Giro d'Italia di smetterla di compiacere Israele a spese dei diritti umani fondamentali e di spostare la gara fuori da Israele. Di nuovo in Italia adesso con la cronaca, lo stupro di Firenze. La Procura Militare di Roma ha chiuso le indagini di sua competenza, quindi dal punto di vista militare, sui due carabinieri accusati di aver violentato due studentesse americane a Firenze. Nell'avviso di conclusione delle indagini, che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, i reati contestati ai carabinieri scelti, al carabiniere scelto Pietro Costa e all'appuntato scelto Marco Camuffo, sono quelli di concorso in violata consegna continuata aggravata e di concorso in peculato militare aggravato. Questo per quanto riguarda appunto l'atteggiamento inerente al servizio che dovevano svolgere. Poi sulla violenza invece competente Firenze. Il somalo torturatore e uccisore di migranti Osman Matamud ha commesso 13 omicidi e non 4 e ha agito con deliberata crudeltà. Lo mette nero su bianco la Corte d'Assise di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso ottobre ha condannato il 22enne somalo all'ergastolo con 3 anni di isolamento diurno per aver ucciso, stuprato e torturato decine di migranti segregati nel campo libico di Bani Walid. I giudici, in oltre 130 pagine, hanno voluto chiarire, in base a quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, il numero di delitti di cui è responsabile l'uomo fermato nel settembre scorso a Milano dopo essere stato riconosciuto da alcuni suoi connazionali. Maltempo. Sono in arrivo al nord, neve e gelo, allerta in Liguria. Oggi c'è stata una tromba marina a Sanremo che ha provocato vari danni e il ferimento di una donna. Poi ne parleremo nel corso di Effetto Notte, anche per capire un po' per tutta l'Italia che fine settimana ci aspetta. A proposito di maltempo, già letto con l'influenza quasi 500.000 di italiani, il picco è previsto per Capodanno, ma sono già appunto 476.000 gli italiani finiti a letto a causa dell'influenza. L'allarme è arrivato nel corso del congresso della Società Italiana di Medicina Generale a Firenze, dalla quale è stato lanciato un appello a vaccinarsi. E poi questa notizia che riguarda le nostre spiagge, l'inquinamento, sono i cotton fioc, il rifiuto che inquina di più le spiagge italiane. Ne sono stati stimati oltre 100 milioni di pezzi dall'ENEA, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, che ha compiuto alcuni studi da cui emerge che oltre l'80% dei rifiuti raccolti sulle spiagge italiane è rappresentato da plastiche che minacciano l'ecosistema e la salute degli esseri umani. Per chiudere ancora il calcio, allora intanto intanto Russia-Arabia Saudita sarà la partita inaugurale del prossimo mondiale di calcio il 14 giugno a Mosca, lo ha stabilito il sorteggio FIFA della Federazione Mondiale del Calcio in corso a Cremlino, poi ne parleremo con Giovanni Capuano dopo. Adesso invece Giovanni ci dice se ci sono ulteriori novità sulla partita di Serie A. Giovanni? No, l'aggiornamento è 1-0 per la Juventus al San Paolo, siamo appena entrati nel 30° minuto del primo tempo. Napoli che soltanto negli ultimi 2-3 minuti è riuscito a prendere possesso della metà campo della Juventus, era stata proprio la formazione di Allegri dopo il vantaggio, l'ha segnato Higuain, lo ricordiamo al 13° ad avere un'altra occasione con una girata di Benatia sugli sviluppi di un calcio d'angolo, palla poco sopra la traversa, questo al 22°. Negli ultimi 2-3 minuti, come raccontato, il Napoli ha cominciato a provare a cingere d'assedio la difesa della Juventus. Mezz'ora, 1-0 per la Juventus, gol di Higuain, a te la linea. Grazie Giovanni Capuano, a dopo. Intanto i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure potete scrivere sempre le vostre opinioni, le vostre riflessioni inviandole come SMS o WhatsApp al 349-238-6666. Per esempio Laura, a proposito della fotografia del Censis di cui parleremo tra poco, dice: sono molto arrabbiata per l'inefficienza di questo paese, mi sento derubata della mia vita, la mia rabbia cresce quando penso che servizi sociali, burocrazia snella, giustizia celere, rispetto dell'ambiente non sono obiettivi impossibili per essere umani, razionali e intelligenti. Francesco dice: un motivo in particolare per avere rancore, questo è il termine usato dal rapporto Censis, dice: Censis fa un ottimo screenshot della realtà spiegando sostanzialmente che i ricchi, potenti e raccomandati sono sempre più forti e pretendono la distanza dalla plebe, aggiungiamo burocrazia kafkiana e pachidermica, giustizia imprecisa e dai tempi geologici, pressione fiscale da rapina, mano armata, il quadretto per cui essere rancorosi già prende forma, e ne parleremo dopo gli aggiornamenti per chi viaggia. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme, 60 minuti, lo sapete, sempre fitti di notizie, di racconti con gli ospiti, poi di approfondimenti per chiarire anche alcuni temi in particolare, per capirli meglio. Roberto Giordano sempre con voi, lo sapete, tutte le sere dal lunedì al venerdì, quindi questo ultimo giorno della settimana per Effetto Notte. Le notizie sono molte, tra poco parleremo appunto del rapporto del Censis, i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte, potete lì mandarli, scriverli oppure con gli SMS e WhatsApp al 349-238-6666. C'è Francesco che scrive, c'è Alberto, scusate, che dice: ci voleva il Censis per scoprirlo che siamo rancorosi? Provate a farvi un giro al supermarket e vedrete, se vi va bene eviterete di litigare un paio di volte per i motivi più vari, mancato rispetto della fila, le casse, carrelli, spese abbandonate e così via. Cristiano dice: se non si distribuisce la ricchezza partendo dagli ultimi, dagli sfavoriti, non ripartirà nulla. Il verdetto del Censis è una fucilata di verità. Un altro ascoltatore scrive: parlano di ripresa ma nei fatti, dalla tassa sui rifiuti all'IVA, alle tasse fino al cuneo fiscale sulla busta paga, gli italiani vedono altro, ecco la sfiducia verso la politica che inizia nei confronti del consigliere comunale ad arrivare al parlamentare. Proprio anche di questa sfiducia, proprio a diversi livelli delle istituzioni, parleremo tra poco appunto in questo rapporto, però prima vi ricordo, se avete acceso puntualmente, quali sono le notizie più importanti. L'Italia nel rapporto Censis, la ripresa c'è anche se il PIL frena ma cresce il rancore. Russiagate, incriminato Michael Flynn, l'ex consigliere di Trump, in tribunale si è dichiarato colpevole di aver mentito all'FBI. Germania, per il governo si prepara alla grosse coalizione, paura per un pacco sospetto fatto brillare ma erano petardi senza innesco. La giornata mondiale oggi contro l'AIDS, meno infezioni in Italia ma si rischia di abbassare la guardia. Maltempo, gelo e neve in arrivo nel nord Italia, allerta in Liguria, oggi c'è stata una tromba marina a Sanremo. Inquinamento, spiagge italiane invase dai cotton fioc, l'agenzia Enea ne stima 100 milioni. Per il calcio, per i mondiali 2018 si comincia il 14 giugno con Russia-Arabia Saudita e poi per la Serie A. Roma batte Spal 3-1 e per il momento nella partita in corso Napoli-Juventus 1-0 per la Juventus. Quindi cominciamo appunto parlando di noi in senso collettivo, di noi popolo italiano, come comunità sociale dello Stivale Italico, attraverso questa ultima istantanea del Censis, scattata dal Censis, che è il 51° rapporto sulla situazione sociale del paese 2017. Allora, quali sono i dati più significativi di questo rapporto, che più spingono, diciamo, a una doverosa riflessione? Il rimpicciolimento, cioè il ridimensionamento demografico del paese, proprio pochi giorni fa, no? È arrivata la notizia da parte dell'Istat delle nascite che sono sempre meno in Italia. Mentre prima erano le donne italiane a fare meno figli, adesso c'è una denatalità anche per quanto riguarda le donne straniere, le immigrate. Poi la povertà del capitale umano immigrato, per l'appunto la crescita del numero dei poveri in senso complessivo: sono oltre 1,6 milioni le famiglie che nel 2016 sono in condizioni di povertà assoluta, con un boom del 96,7% rispetto al periodo pre-crisi, cioè prima del 2008. Poi c'è la polarizzazione dell'occupazione che penalizza l'ex ceto medio, ormai si dice anche ex ceto medio come se non esistesse, praticamente è più polarizzazione, nel senso che ci sono lavori con alta qualificazione oppure quelli con bassa qualificazione, in mezzo difficile trovare un lavoro. Poi la stragrande maggioranza degli italiani, addirittura l'84%, non ha fiducia nei partiti, e più in specifico il 78% non ha fiducia nel governo, il 76% nel Parlamento, il 70% in regioni e comuni non ha fiducia. Di conseguenza a tutto questo, diciamo, a questi fatti salienti, il dato più avvilente ma anche il più inquietante secondo questo rapporto del Censis è che, nonostante ci sia comunque una certa ripresa grazie in particolare al manifatturiero, no, per quanto riguarda appunto l'economia e la crescita del paese, cresce in Italia il sentimento del rancore, che non è un bel sentimento naturalmente, perché prevale la convinzione che sia difficile salire o risalire la scala sociale, no? Lo pensa l'87,3% degli italiani che sentono di appartenere a un ceto popolare, l'83,5% del ceto medio e il 71,4% del ceto benestante. Anche il ceto benestante pensa che non sia possibile guadagnare qualche punto, diciamo così, nella scala sociale. Al contrario, pensano che sia facile invece scendere, quindi peggiorare ulteriormente il proprio stato sociale, il 71,5% del ceto popolare, il 65,4% del ceto medio, ma anche il 62,1% delle persone più abbienti. Insomma, in questo contesto si fa strada questa avversione, questo è il rancore, avversione per i cosiddetti diversi, per chi potrebbe accaparrarsi fette di benessere, insomma una situazione, diciamo, poco piacevole. Ne parliamo con Domenico De Masi, che è il sociologo per antonomasia e nonché naturalmente professore emerito di sociologia del lavoro all'Università La Sapienza di Roma. Professor De Masi, buonasera. Buonasera e grazie di questo elogio così non corrispondente alla realtà. Lei è sempre troppo modesto. Allora, prima di tutto, dopo tutta questa mia introduzione, le farei sentire due passaggi di Giorgio De Rita, presidente del Censis. Uno a proposito della fiducia di cui parlavamo, no? Della sfiducia, anzi, nei partiti, nel governo, nella politica in generale. Sentiamo. Diminuisce il grado di fiducia, diminuisce anche la voglia di partecipazione, di guardare, di star dentro i cambiamenti politici. Noi crediamo che il difetto di questo anno o di questi ultimi anni da parte della politica è stato di non avere né la capacità di ascoltare i cambiamenti del corpo sociale, di capirli, di analizzarli oltre che di gestirli, né la capacità di offrire uno sguardo del futuro, di preparare e immaginare il futuro dei prossimi anni. È stata un po' come intrappolata nel quotidiano Mi Piace, in un dibattito che partiva la mattina e si esauriva la sera. Purtroppo la società ha anche tempi lunghi che devono essere rispettati. Poi, quanto alla ripresa, che dice il Censis, sì, c'è, però evidentemente non ha prodotto il benessere necessario e distribuito equamente, insomma. Sicuramente la società italiana, il corpo sociale italiano nel suo complesso è riuscito a resistere bene a questi anni di difficoltà e soprattutto in questo anno a rimettersi in moto, a ritrovare spazi di crescita. Purtroppo l'ha fatto a scapito di alcune componenti del piano sociale, i giovani ad esempio fanno sempre più fatica a trovare lavoro, le aree del mezzogiorno sembrano in difficoltà, sono mancate quei processi di sviluppo sistemico che erano importanti, dalle infrastrutture agli investimenti pubblici, alle riforme normative su tanti fronti. È un po' come una società che non abbia avuto la forza di preparare e di immaginare il proprio futuro. Quindi è una società che sta mettendosi sotto sforzo, ma che fatica a preparare il prossimo passo. Insomma, professore, un paese, professor De Masi, un paese stagnante e senza molta speranza, comunque con questo sentimento appunto negativo di rancore. Sì, il Censis fa sempre fotografie molto, molto precise. Anche se bisogna dire che i i grandi mutamenti sociali di cui si interessa naturalmente non possono avere modifiche rapide da un anno all'altro, lo dice lo stesso presidente del Censis. Ma che cosa in parte mi stupisce, in parte mi conferma la mia visione della società italiana? Anzitutto non si vede da parte dei cittadini il riflesso immediato, rapido di questo presunto, di questa presunta ripresa che tutte le sere i telegiornali ci sciorinano. Ora immaginiamo che ci sia davvero questa ripresa, comunque era logico che non ci fosse una ricaduta in termini occupazionali, ed è l'occupazione quella che crea rancore o non rancore nella collettività. Perché non c'è ricaduta occupazionale? Lo dico sempre da 30 anni ormai, perché se un imprenditore oggi ha un po' di soldi in più da investire, non li investe per comprare uomini, li investe per comprare robot. Cioè è la tecnologia che sta spiazzando la dimensione umana del lavoro, e a questo si potrebbe fare fronte soltanto riducendo progressivamente l'orario di lavoro, come ha fatto la Francia o come ha fatto la Germania. Man mano che ha introdotto tecnologie, la Germania ha ridotto l'orario di lavoro al punto tale che oggi un tedesco lavora circa 1400 ore all'anno contro le nostre 1800, con 400 ore in più a persona all'anno lei capisce che non si può pretendere di risolvere i problemi occupazionali. Non a caso la Germania c'è il 4% e noi l'11% di disoccupati. E allora sentire tutte le sere che c'è la ripresa e avere nella stanza accanto un figlio o due figli disoccupati, lei capisce che non può che generare rancore. È come se ogni sera ci si promettessero delle cose che poi nella pratica non si vedono. A questo va aggiunto poi che proprio a causa della campagna elettorale ora è tutto un profluvio di promesse che sappiamo benissimo non poter essere soddisfatte, e quindi ci, da una parte ci rendiamo conto che cadiamo nelle stesse situazioni assurde in cui siamo stati per 20 anni, e dall'altra non poter uscire da questo piccolo circo. Professore, ma dice promesse che poi saranno disattese per mancanza di risorse, di strumenti, per incapacità, per mancanza di volontà? No, è una cosa semplice. Il Censis, per esempio, questo chiederei al presidente che stimo, chiederei di fare anche però un capitolo parallelo a quello dei poveri, un capitolo sui ricchi, perché nel frattempo le 10 famiglie più ricche d'Italia, che all'inizio della crisi nel 2007 avevano la ricchezza di 3 milioni e mezzo di italiani, ora hanno la ricchezza di 6 milioni di italiani e non sono neppure contenti, a quanto pare, se leggiamo i dati del Censis. Quindi bisogna fare questa visione parallela dell'economia. Non si risolve la povertà dei poveri perché si risolve benissimo l'arricchimento dei ricchi. E questo è un elemento che ormai è sotto gli occhi di tutti e incrementa quel rancore di cui si parlava prima. Tra l'altro, insomma, si parlava anche questi giorni con tutte volte i licenziamenti che ci sono magari da grandi industrie o multinazionali che fanno milioni di fatturato e poi non si capisce perché loro crescono, però ogni tanto no, licenziano un bel po' di persone. Professore, comunque dice anche la ricerca del Censis che quindi sostanzialmente è un popolo di sfiduciati nelle istituzioni, che fa fatica a laurearsi e a trovare un lavoro e che però investe parte delle sue risorse in generi di comfort, nell'estetica, nei viaggi, forse il tentativo estremo di far muovere un po' l'economia ma anche di confortarsi per questa situazione così piuttosto avvilente. Sì, bisogna tenere conto anche del fatto che i viaggi costano sempre di meno, che la cultura costa sempre di meno, che perfino le tecnologie costano sempre di meno, per cui è un lusso sempre meno lussuoso dal punto di vista economico, anche se dà molte soddisfazioni dal punto di vista della qualità della propria vita. Meno male, almeno quello, no, professore? Almeno quello. Tenga comunque conto che noi siamo un paese ricchissimo, non ricco, ricchissimo. Su 196 paesi siamo all'ottavo posto per prodotto interno lordo. Ogni italiano in media a 36.000 dollari. Significa che se fosse equamente distribuita questa ricchezza, una famiglia di 4 persone avrebbe 120.000 dollari all'anno, vivrebbe agiatamente. Non è il problema della produzione della ricchezza su cui si riflette continuamente e ci si costringe a riflettere, è il problema della distribuzione della ricchezza. Distribuendosi male la ricchezza, si distribuiscono male anche altre cose, cioè il potere, il sapere, il lavoro, le opportunità, le tutele. È tutta una divisione spilenca che fa sì che il ricco diventa sempre più ricco, il povero più povero e cresce ancora. Professore, ma in senso questa redistribuzione che le dicevano, a parte che i miti restano sempre il posto fisso e la casa di proprietà in Italia, è anche nel senso di quello che dicevo prima, cioè anche magari delle grandi industrie, grandi multinazionali che fanno sempre più fatturato, che però poi a chi ci lavora o danno poco, stipendi bassi oppure addirittura licenziamenti in questo senso, o come lo spiegherebbe in modo molto lineare in cosa consisterebbe questa redistribuzione? Sono tanti disguidi. Molte di quelle multinazionali che dice lei vendono in Italia e fatturano, che so, in Irlanda, quindi rubano proprio a man bassa allo Stato. Noi dobbiamo essere grati al procuratore generale di Milano, a Francesco Greco, per essere stato coraggiosissimo persecutore di questi disguidi delle grandi multinazionali. Ma questo non è che uno degli aspetti. L'altro aspetto gravissimo, per esempio, è che le aziende stanno reintroducendo criteri organizzativi che sembravano dopo gli anni 70 tramontati per sempre, di sfruttamento taylorista che non c'era neppure, diciamo, nei primi del Novecento. E questo è gravissimo, perché lo fanno proprio le aziende che dovrebbero diffondere maggiore senso di modernizzazione della qualità della vita e del lavoro. Grazie professor Domenico De Masi, speriamo che il prossimo di ritrovarci col prossimo rapporto un pochino più ottimistico, più positivo in generale, insomma. Speriamo, al di là delle prospettive. In questo caso la speranza può poco, bisogna agire in politicamente, questo senso. È chiaro, certo. A proposito della sfiducia nella politica, grazie professor De Masi. Grazie a lei. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche se volete con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano, come tutte le sere dal lunedì al venerdì. Abbiamo parlato già di molte cose, vedo i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Dice per esempio questo ascoltatore, Federico da Bologna: cara Roberta, la classe povera crea ricchezza nel paese, i ricchi l'amministrano. Dice questo ascoltatore. Fabio scrive, anzi è Gianni da Bologna, no è Bruno, scusate, un sacco di nomi. Il rancore sociale e l'iniquità sono il primo passo verso la balcanizzazione. In effetti, insomma, quando c'è scontento, rancore, iniquità, si crea un po' uno sgretolamento, no, del corpo sociale, quindi viene meno la solidarietà, il senso di appartenenza. Poi invece, a proposito dell'inquinamento dei 100 milioni di cotton fioc che ci sarebbero sulle nostre spiagge italiane, Fabio scrive: inquinamento spiagge, dopo i mozziconi di sigaretta, le buste di plastica, anche i cotton fioc, non c'è più speranza, in effetti. Adesso però parliamo di tutto un altro tema, voi continuate tranquillamente con le vostre riflessioni. Vi ricordo molto velocemente che i fatti principali sono appunto questo rapporto del Censis, il 51esimo, sulla situazione sociale dell'Italia. La ripresa c'è, dice, anche se il PIL frena, ma cresce il rancore. E poi c'è sfiducia nella politica, paura del declassamento sociale, boom della povertà. Russiagate, incriminato Michael Flynn, l'ex consigliere di Trump, in tribunale si è ammesso di essere colpevole di aver mentito all'FBI. E poi Germania, per il governo si prepara la grosse coalizione, la giornata mondiale contro l'AIDS, ne parleremo tra poco. Arriva poi il maltempo, gelo e neve al nord, inquinamento, appunto la notizia delle spiagge italiane invase da cotton fioc, l'agenzia ENEA ne stima 100 milioni e poi c'è il calcio di cui parleremo ancora dopo. Allora, oggi è la giornata in cui si celebra in tutto il mondo la giornata internazionale contro l'AIDS, che si celebra ormai da 39 anni, fu ideata nel 1987, è stata attuata l'anno dopo dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'OMS, poi fatta propria dall'Agenzia delle Nazioni Unite per la lotta all'AIDS, con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica su questa infezione che è stata mortale per tanto tempo. E adesso ci si chiede, ha ancora un senso celebrare questa giornata a livello mondiale? Purtroppo sì, perché anche se adesso ci sono nuove medicine, i malati si possono curare, vivono più a lungo, però comunque la battaglia non è finita, come ci confermerà il professor Giuseppe Tambussi, infettivologo dell'ospedale di San Raffaele di Milano. Professore Tambussi, buonasera. Sì, buonasera. Quindi qual è, per esempio, anche solo per l'Italia, ma se vuole dare una visione più globale, la situazione per quanto riguarda l'AIDS e l'HIV? A livello globale è una situazione estremamente complessa, 40 milioni di persone che vivono con HIV, con tutta una serie di risvolti sia da un punto di vista della sanità che da un punto di vista economico, perché sono persone che sono state malate per lungo tempo, e nei paesi africani l'AIDS ha determinato un rallentamento spaventoso della crescita proprio in termini anche di benessere di popolazione. Per quello che riguarda l'Italia, fortunatamente la situazione è decisamente migliore. I dati dell'Istituto Superiore di Sanità che sono stati rilasciati ieri ci dicono di un quadro abbastanza stabile, malgrado la certezza che ci sono sempre nuove infezioni che mantengono quindi l'infezione nella popolazione generale. Ecco. Più i giovani o più le persone un po' più grandi sono a rischio? Dati chiarissimi che ci dicono che la fascia più a rischio sono i giovani, prevalentemente omosessuali, in una fascia di età che maschi? Va tra maschi, certo, tra i 20 e i 20 e i 30 anni è il picco di casi che sono stati segnalati nel 2016, perché i dati che sono stati rilasciati dagli ISS quest'anno si riferiscono all'anno precedente. Perché forse si rischia di abbassare un po' la guardia, no, professor Tambussi, nel senso che sembra più una cosa degli anni 80, 90, qualcosa che si è perso un po', in realtà il rischio c'è sempre. No, il rischio c'è sempre, bisogna che passi il messaggio fortissimo che bisogna fare il test. La maggior parte delle persone si pensano al di fuori delle popolazioni a rischio, in realtà siamo potenzialmente tutti a rischio. Facendo il test almeno una volta e ripetendolo in maniera corretta nel momento in cui ha avuto un comportamento così a rischio, potenzialmente a rischio, certamente si potrebbe intanto far emergere una parte della popolazione HIV che ancora non sa di esserlo, e si potrebbe anche proprio fare una opera di educazione nei riguardi della propria salute e quindi anche nei riguardi della salute degli altri. Certamente. Professor Tambussi, per quanto riguarda le nuove terapie, ci sono grossi passi avanti, si parla qualche volta della speranza di un vaccino. Le terapie sono straordinariamente efficaci, molto ben tollerate, facili da assumere, e sono state negli ultimi anni il reale argine alla progressione della malattia nelle persone con HIV. Siamo arrivati a un livello di ottimizzazione veramente notevole, si sta lavorando ancora in questa direzione. Il vaccino rimane tuttora non una chimera, certamente, una speranza, perché di vaccini, di candidati vaccinali alle viste non ce ne sono. Fortunatamente la scienza progredisce molto rapidamente e le sorprese quindi possono venire fuori da un momento all'altro. Al momento però la situazione è, diciamo, abbastanza statica. Confidiamo, cioè, in una sorpresa. Allora, grazie professor Giuseppe Tambussi. Prego, grazie, buonasera. Buon lavoro. Viabilità. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Ancora notizie, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, procediamo tra i vari fatti principali della giornata. Abbiamo lungamente parlato del rapporto del Censis che dice che la ripresa c'è anche se il PIL frena, ma cresce il rancore. Molti messaggi vostri su questo argomento, dice molto bassa la fiducia nella politica, paura del declassamento sociale, boom della povertà. Poi si riaccende, anzi non si è mai sopito, la questione del Russiagate, dello scandalo delle infiltrazioni, diciamo, russe nella campagna elettorale che ha fatto vincere Trump, incriminato Michael Flynn, l'ex consigliere del presidente americano. Abbiamo appena parlato della giornata mondiale contro l'AIDS, poi del maltempo ce ne occuperemo tra poco. Adesso invece il calcio con Giovanni Capuano per gli aggiornamenti della partita in corso, Napoli-Juventus di Serie A, ma anche per parlare dei sorteggi per i mondiali di calcio 2018 in Russia, con l'Italia che non ci sarà naturalmente. Sono stati fatti oggi questi sorteggi dalla FIFA, dalla Federazione Mondiale, sono svolti al Cremlino, questa specie di fortezza che ospita le istituzioni governative russe. Che dici, Giovanni? Come sono andati questi sorteggi? Dico beati loro. Beati loro che hanno avuto qualcosa da fare questo pomeriggio, ore 16 italiane. Noi invece abbiamo spiato dal buco della serratura, e quello che abbiamo visto è che non c'è un girone della morte, cosa che ogni tanto nelle ultime edizioni era capitata. C'è anche una spiegazione, quest'anno, cioè quelli terribili, modo... vuol dire? Sì, quelli terribili, quelli soprattutto in cui, oltre a due squadre forti, che bene o male è qualcosa che accade sempre nel girone eliminatorio del mondiale, c'è però una terza temibile. Quest'anno era cambiato un po' il modo di fare questi sorteggi, cioè il modo di divisione nelle quattro fasce da cui si è partiti per fare il girone, si è andati dritti per, rispettando il ranking FIFA, che è la classifica che mette in fila tutte le nazionali del mondo, e quindi questo ha, diciamo, diminuito il rischio di un sorteggio con un gruppo della morte, così vengono definiti. Il resto poi ovviamente ha fatto la sorte. Diciamo che non è andata benissimo all'Argentina, che ha pescato Croazia e Islanda. L'Islanda è la squadra che nel 2016 è stata la rivelazione dell'Europeo, aveva buttato fuori anche l'Inghilterra nella sfida degli ottavi di finale. Non è andata benissimo al Brasile, che nella quarta fascia ha pescato la più forte di tutte, la Serbia e anche la Svizzera. E poi c'è qualche incrocio che è interessante. Quello più interessante di tutti in questi gironi è sicuramente Portogallo-Spagna, gruppo B, che significa Ronaldo contro la Spagna. Cristiano Ronaldo, che gioca nel Real Madrid ed è, insomma, la stella più lucente della Liga insieme a Messi, e gioca proprio contro la nazionale che lo ospita e gli dà lavoro. La Russia, padrona di casa, aprirà contro l'Arabia Saudita, l'hai detto, 14 giugno a Mosca, la prima partita di questo mondiale. È finita in un girone sostanzialmente facile con Uruguay, Egitto e Arabia Saudita. La Russia, che in realtà è tra le nazionali meno forti di questo mondiale, poi ovviamente ci aspettiamo tutti che arrivi almeno agli ottavi di finale, essendo la squadra padrona di casa, e lì poi dovrebbe fermarsi, perché incrocerà la seconda tra Portogallo e Spagna, se tutto va come deve andare nel gruppo B, e quindi diventa un accoppiamento probabilmente difficilissimo. In generale, quasi tutte le teste di serie hanno avuto una terza o una quarta squadra sulla carta abbordabile, e quindi è un sorteggio che, almeno così, a sei mesi dal mondiale, non ci fa immaginare che possano esserci delle sorprese clamorose. Senti, Putin ha detto oggi: ospiteremo i mondiali al massimo livello di impegno possibile, sappiamo ospitare i nostri amici, la nostra ospitalità è famosa, siamo orgogliosi che tocchi a noi. Anche se, a proposito di ospitalità, leggevo ieri che la FIFA, la Federazione Internazionale che si occupa, la parte che si occupa di antidiscriminazione, sta allertando i tifosi di calcio gay, perché dice in Russia potrebbero incontrare, insomma, manifestazioni di intolleranza. Sì, è un tema che ovviamente è già stato affrontato per le Olimpiadi Invernali di Sochi di un paio di anni fa, e quindi tornerà di strettissima attualità anche nei prossimi mesi, quelli che avvicineranno all'inizio, al calcio d'inizio del 14 giugno. C'è un altro tema che oggi non è stato affrontato, ma che, per quello che abbiamo visto nell'estate dell'Europeo di Francia nel 2016, tornerà di strettissima attualità, ed è quello della sicurezza, perché ricorderete i gravissimi incidenti cui si erano resi responsabili proprio i tifosi russi a seguito della nazionale russa, e quindi l'allerta è altissima, ed è un'allerta che si salda anche con l'allarme per possibili atti terroristici. Quindi ci sono tutta una serie di tematiche che torneranno nei prossimi mesi, e io sono convinto, anzi, che si prenderanno le prime pagine prima che si cominci a giocare a calcio. Quella di oggi è stata fondamentalmente una grande festa. Anche il presidente della FIFA Infantino ha più volte richiamato a questa certezza che hanno gli organizzatori del mondiale, che la Russia sarà capace di essere un paese ospitale. E dietro quell'aggettivo ospitale, evidentemente, c'era ben più della situazione logistica, degli alberghi, dei ritiri per le 32 nazionali qualificate. Evidentemente c'è un tema molto più ampio, che oggi è stato soltanto sfiorato, ma che nei prossimi mesi, anche con un po' di moral suasion, io sono sicuro che chi ha mandato i mondiali in Russia tornerà ad affrontare. Giovanni, abbiamo ancora un minuto per parlare, per aggiornare. Mi sembra che Napoli-Juventus sia sempre il risultato di prima, 1-0 per la Juventus. Sì, è iniziato il secondo tempo da 40 secondi, il risultato è 1-0 per la Juventus, sta decidendo fin qui il gol di Higuaín al al 13° del primo tempo, un gol che ha coronato un ottimo quarto d'ora della Juventus, che aveva già avuto un'occasione. Higuain ha segnato un gran bel gol in contropiede, un contropiede aperto da Douglas Costa e rifinito da Dybala. La Juventus per mezz'ora è stata padrona del campo, poi nell'ultimo quarto d'ora si è visto il Napoli, che ha avuto un paio di occasioni a cavallo della mezz'ora, prima con un destro di Insigne che Buffon ha messo in corner e poi con un colpo di testa dello stesso Insigne che Buffon ha smanacciato in mezzo all'area di rigore, poi i compagni dell'attacco del Napoli non sono riusciti a ribadire in rete. In generale è una Juventus che dà l'impressione di aver preparato molto bene questa partita, è un Napoli un po' in difficoltà, siamo abituati a vederlo giocare meglio e su ritmi più alti. Il primo tempo del Napoli è stato abbastanza deludente e secondo me certifica anche in maniera meritata il fatto che la Juventus sia in vantaggio. Adesso però bisogna vedere in questo secondo tempo, non ci sono state sostituzioni, ma spesso Sarri ci ha abituato a far cambiare i suoi di ritmo e quindi siamo qui, secondo minuto 1-0 per la Juve. Giovanni, chiudiamo, solo mi dici chi è quello con quella cresta pazzesca che sembra un'iguana, che non è Higuain? Amsic. Proprio vanno al parrucchiere prima della partita, secondo te, proprio pochi minuti prima dell'inizio del fischio? È uno dei suoi simboli, Amsic, ecco. È il giocatore con la cresta, ma lo è da anni. Vabbè, non l'avevo notato prima. Se segna un gol questa sera o in generale il prossimo gol che segnerà Amsic, no, non se la taglierà, ma raggiungerà Maradona come numero di gol nella storia del Napoli, il che ha un significato particolare a Napoli e dintorni. Non è una questione allora di capelli. Grazie caro Giovanni Capuano. Ciao Giovanni. Ciao Roberta. Buon proseguimento, buona partita. E adesso invece cosa diciamo? Diciamo che tempo che fa, lo chiediamo al nostro Paolo Corazzon di Trebi Meteo, però ho paura che ci dia notizie che l'inverno la voglia fare da protagonista. Si è già visto la tromba d'aria a Sanremo che ha fatto vari danni in città, una donna lievemente ferita, gelo e neve in arrivo, è vero Paolo? Sì, buonasera Roberta, adesso non è una situazione così drammatica come la stai dipingendo tu. Sai che a me l'inverno... lo so, nelle prossime ore un po' di neve in effetti interesserà il Piemonte, l'entroterra ligure. Oggi tra l'altro è riuscita a nevicare anche al mare tra Genova e Savona, e poi neve anche sull'Emilia occidentale e sulla bassa Lombardia, però fino a domattina, quindi insomma per un periodo abbastanza limitato. Poi nel weekend in realtà il maltempo si sposta al centro-sud con acquazzoni temporali tra sabato e domenica, mentre piano piano al nord tende a migliorare. La beffa è che poi l'inizio della prossima settimana vedrà il ritorno del bel tempo fino a mercoledì, giovedì. E temo che il ponte dell'Immacolata possa essere interessato da una nuova perturbazione, quindi la sfortuna potrebbe essere proprio che venerdì e sabato prossimi arrivi un nuovo sistema nuvoloso. Dispettoso questo inverno, come succede spesso nel fine settimana o sbaglio? Ma guarda, davvero, in realtà non ci sono statistiche che lo dimostrano, però... Ma le avete mai fatte, Paolo? Avete mai fatte queste statistiche? Sì, abbiamo provato, in realtà no, non è vero, però fatto sta che forse, ecco, la sfortuna fa sì che becchi sempre i ponti e la perturbazione, quello forse sì, ma non c'è un motivo, è proprio sfortuna. Senti, ma ormai inverno conclamato comunque? No, perché in realtà il centro-sud non fa così freddo, però ecco, quello che posso aggiungere è che probabilmente questo inverno farà l'inverno, cosa che negli anni scorsi non capitava da un po', quindi aspettiamoci una stagione che si farà sentire in qualche modo. Sarà giusto, ma a me un po' dispiace. Grazie Paolo Corazzon, comunque buon tempo a te comunque sia. Ciao Paolo. A tutti. E poi noi ci risentiamo come sempre alle 22 per i titoli principali.